Ma prima di questi saluti vi ricordo di andare sul sito di Radio Onda Rossa e aderire alla nostra campagna di crowdfunding. Già qualcuno di voi l'ha fatto, per esempio Lucia Cagliazza di Lupsi, che saluto. Il nostro radio abbonamento per sostenere questa radio, che tutti ormai sanno è completamente autogestita ormai da lontano 1977, con il passaggio al DAB, almeno per adesso nella provincia di Terni ci sono anche delle spese ulteriori, quindi il banner specifico può indicare le varie modalità di adesione. Saluto Giovanni Lisi di Corzi Cinti Serpente dalla Puglia, Antonio Tognetti da Viterbo, Marco Mascia di Progetto Sonoro, Anna qui a Roma, Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco, Maglia che ci sta ascoltando in Umbria, Cristiano Bocci di Chemical Resistance. Un saluto a Cecilia Miradoli di Pindar, a Cortina d'Ampezzo c'è Tabula Rasa, a Berlino Saraboi. Un grosso abbraccio ad Anto Zoviet di Omicidio. Che giustamente mi ricorda che oggi nasceva Marco Corbelli, ma noi lo ricorderemo a maggio, quando andremo un po' a sentirci qualcosa, approfittando tra virgolette dell'anniversario della sua morte. Venusia Zozzetta Stramonio, puntualissima e sempre frizzante. Sara Capo Fontana di Zaide. Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal dalla Sardegna. Altro fedelissimo è Francesco Cornello in quel di Bergamo. Si sono anche aggiunti Barbara Caridi, attrice a 360 gradi, bravissima, Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta, Simone Scalise di Aliocaus. L'abbiamo salutata prima Lucia Cagliazza, e proprio con lei e quindi con Lupsi andiamo ad iniziare questa odierna puntata di prove tecniche di trasmissione. Mi si ricorda che il compleanno di Maya, personalmente già le ho mandato gli auguri, ma lo facciamo anche collettivamente qui da questo spazio. Tornando a Lucia Cagliazza, è uscito dunque questo suo ultimissimo album che porta il nome di Poetry Kingdom, con la dedica To My Endless Poetry, con ossia la mia poesia senza fine, una bellissima frase che nasconde tanti significati. Un album uscito l'8 marzo 2024, che ci porta nella sua consueta dimensione. Una dimensione quasi in sospensione, fluida, sognante e direi anche con qualcosa di metafisico. Questo si potrà anche appurare attraverso Neptune e Cathedral of Sounds. E abbiamo aperto questa odierna puntata di prove tecniche di trasmissione con questi viaggi onirici di Lupsi da Poetic Kingdom. Indubbiamente, come dice Antonio Zovetti, si possono anche percepire degli umori che ci riportano alla memoria le gesta di Syd Barrett e la lezione Kraut di Teutonica Memoria. Ovviamente attraverso la grossa personalità artistica di Lucia Cagliazza. Chitarra trattata e dilatatissima che è assolutamente riconoscibile ormai in tanti suoi lavori usciti da qualche anno a questa parte, rintracciabili sul suo profilo Bandcamp. Saluto Ernesti Panico Brusati, che ha bazzicato Roma per un periodo recente. Lo abbiamo incontrato con piacere, visto anche in una sua performance Il Medico della Peste. Sarà Capo a Fontana e Like a Wake, eminenza grigia dell'ambient italiano. Molti di questi artisti, se non tutti, mi hanno omaggiato nella compilation che sta diventando un vero caso mediatico, passatemi la battuta, dedicato alla leggenda radiofonica che appunto sarei io. 41 tracce e molte sono ad appannaggio di tutti questi nomi che ho enunciato fino ad ora. E dopo ci andremo ad ascoltare 3 episodi da questa compilation. Leggo che in cantiere c'è una collaborazione futuribile, auspicabile, aggiungo io, tra Giovanni Lisi e Lucia Cagliazza. Promette bene, questi due ottimi artisti insieme, la vedo veramente bene, speriamo ed aspettiamo. Peraltro sta anche per uscire un album di Cordis Cinti Serpente insieme a Sara Bellini, se non erro, si chiama. Ed aspettiamo anche quello. Passiamo alle liturgie canore, così mantriche appartenenti ad Antonio Tonietti. Un artista che io ho conosciuto perché ha collaborato in passato con Gianluca Becuzzi. Ebbene, ci ha regalato un album a suo appannaggio dal nome No Longer Human, con la Dissipazio di Nicola Quiriconi. Anche questo è un album di quest'anno. Ci andremo a perdere nella seconda traccia che porta il nome di Second Notebook. Thank you. ritengo una delle rivelazioni più importanti di questo inizio 2024. Questo Antonio Tognetti, No Longer Human. Qualcosa di ieratico, esoterico, ritualistico anche in questo caso. Il canto visionario, anche questo una grossissima rivelazione di Claudio Milano, che sinceramente non conoscevo, ed è stata per me una vera e eccellente scoperta. Un canto che, come si diceva la scorsa settimana, ci ha ricordato a molti di noi Yuri Kamisaska. E lì ci perdiamo negli anni 70. Antonio Tognetti qui suonava il basso preparato, il basso e il sintetizzatore. E c'è scritto che Antonio usa esclusivamente strumenti autocostruiti, il che rende ancora più affascinante questa operazione e tutti i suoi gesti canori. Saluto Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster e di nuovo Cristiano Bocci, l'ideatore della compilation del quale parlavo prima e che ci ascolteremo qualcosa più avanti. Saluto Mariano Anni Thierry. E un grosso abbraccio anche al talento neofolk di Enrico Marcheggiani. Questa era Second Notebook, No Longer Human. La prossima settimana ci ascolteremo anche il terzo episodio e poi anche il quarto, naturalmente. Andiamo in casa Raffaele Pezzella, la 8 Tower Records, che ormai i più attenti sapranno che tra le moltissime, diciamo, produzioni, molte si caratterizzano per avere un approccio quasi biografico e spesso si toccano scrittori del passato e le loro relative opere. E questa sera è il caso di Music Inspired by the Bram Stoker Novel, ossia Dracula, un lavoro uscito sul fine del 2022 tra le numerose compilation uscite negli ultimi anni. Quindi mi sembra evidente lo scopo: affrontare la tematica legata a questo personaggio che affolla l'immaginario di molti di noi. E quindi una serie di artisti, molti di questi a noi conosciuti, ci sarà Mario Lino Stancati, il grande Michael Bonaventure ed altri. Cominciamo con Nosferatu, composta da Dead Space Chamber Music, progetto inglese, e poi Subterranean Swords con Creatures of the Night. Thank you. questa sera abbiamo cominciato a conoscere Dracula, music inspired by the Bram Stoker's novel. Bram Stoker, scrittore di questa famosissima novella che tanto ha influenzato cultura musicale e cinematografica. E infatti sono preponderanti gli stratagemmi sonori, spettrali e madidi di riferimenti misterici in ossequio alla tematica trattata, per l'appunto Dracula. Non poteva sfuggire all'azione di Raffaele Pezzella questo personaggio così importante nel nostro immaginario. E questa sera The Space Chamber Music, progetto di Brighton, e Subterranean Source di Andrea Bellucci, invece progetto italiano. Intanto salutiamo Marcello Buffetti di Monum e Wurnus Eilen, la storica industrial noise piemontese. Cambiamo leggermente il tiro musicale, direi anche di parecchio, e ci andremo un po' a godere delle atmosfere martial neofolk che affollano la produzione di Ignoto Militi, anche questo progetto italiano. Abbiamo già sentito già qualcosa di lui nelle scorse settimane, e anche in prospettiva andremo bene o male ad analizzare praticamente tutto il suo materiale. Questa sera è il turno della ballata neofolk Addio Primavera, poi ci sarà Notte Inquieta e Il Risveglio. Quest'ultima è decisamente in odor di martial stile Triari e dintorni. Wow. grande Martial, il grande No Folk di Ignoto Militi, dove la guerra di trincea, la sofferenza e il sangue sono la materia principale affrontata da questo progetto friulano. Un messaggio neanche troppo velatamente antimilitarista, pervade tutte le opere, anche questo presente, un lavoro del 2020. La lunghezza dell'elastico si regola per mezzo della fibbia. Si parlava del carso e non quello che si era equivocato da più di voi, da molti di voi. Vi consiglio comunque, ed è la cosa strana, soltanto con Android, non so perché, sul sito Bandcamp ci sono anche i testi, le liriche che danno una esatta dimensione dei contenuti di Ignoto Militi. Punto terzo. Si legano dietro la nuca le due fetuzze superiori. Questa è una marcetta ironica che tratta delle maschere da guerra. Vedo che la chat sta prendendo una piega, direi abbastanza demenziale, quindi andiamo oltre e, che dire, lasciamo Ignoto Militi, che però tornerà puntualmente anche il prossimo mercoledì nelle nostre selezioni. Si cambia storia, si va nel nord Europa, si va in Svezia da Peter Andersson, questa volta sotto la dicitura Stratum Terror, quindi il suo progetto più industrial nella sua ormai lunga carriera, costellata da molti progetti paralleli. Questo lavoro di Stratum Terror è uscito lo scorso anno, si chiama Love Me Tender or I Will Cause Pain, e questa sera ci ascoltiamo due estratti. Poena Ex Machina e Dismember Me.